La campagna nasce verso metà maggio, quando al porto di Catania una piccola imbarcazione ha tentato di fare una manovra di disturbo contro una nave di SOS Mediterranea, che è una delle ONG che opera nel Mediterraneo per salvare i migranti. Dentro quella barca c'erano degli attivisti di Generazione Identitaria Italia e Austria e una giornalista canadese che si chiama Lauren Sodern, che è, diciamo, una delle esponenti più seguite questa nebulosa che risponde al nome di alt-right americana. Dopo quell'iniziativa, che sostanzialmente non si è risolta nel nulla, perché sono stati subito fermati e identificati dalla Guardia Costiera, è stata lanciata appunto questa campagna, una campagna più ampia, si chiama Defend Europe. Cioè, in realtà non si capisce proprio bene cosa vogliono fare, perché si dicono che vogliono disturbare le operazioni delle ONG e collaborare con la Guardia Costiera libica. Però, come è noto, ci sono tante guardie costiere libiche, così come ci sono tanti governi libici, sono in situazioni di caos, che cioè non si capisce bene con chi si dovrebbe interfacciare. Tra l'altro, poi secondo me vanno a fare un'azione presente illegale, perché loro vogliono fare dei respingimenti che non si possono fare. Detto questo, quello che è probabilmente l'aspetto più interessante è cercare di capire chi sono, di che movimento fanno parte, cioè di Generazione Identitaria, che ha una storia abbastanza istruttiva, perché nasce in Francia nel 2003 come movimento giovanile del Bloc Identitaire, che era un movimento di estrema destra. Poi nel 2012 si stacca dal Bloc Identitaire e diventa autonomo come appunto Generazione Identitaire. Generazione Identitaire si distacca dalla tradizione dell'estrema destra, sia francese che ormai europea, perché si rifà principalmente alle tesi della Nouvelle Droite di Alain de Benoist, e soprattutto si rifà alle tesi di intellettuali di estrema destra come Renaud Camus, che è l'inventore del concetto di sostituzione etnica, oppure il grand remplacement. E sostanzialmente Camus e tutta la corrente di pensiero che fa capo a lui sostiene che, per restare sulla Francia, i francesi di ceppo, cioè i français de souche, sarebbero in procinto di essere sostituiti dalle popolazioni del Maghreb. È sostanzialmente una teoria del complotto. Ovviamente non c'è nessun rimpiazzo, non c'è nessuna sostituzione etnica. Diciamo che quello che è partito come una tesi assolutamente minoritaria all'interno di una corrente dell'estrema destra che si rifà appunto alla Nouvelle Droite e altre cose, piano piano è iniziato, e qua rimango sempre sulla Francia, è iniziato a esondare anche nel dibattito pubblico, perché il Front National ad esempio l'ha preso, e poi la stessa Generazione Identitaire è riuscita a introdurre nel dibattito pubblico un altro concetto che viene sbandierato anche dalla Generazione Identitaria Italia, che si chiama remigrazione, che sostanzialmente è il doppio speculare della sostituzione etnica, e quindi per reimmigrazione si intende appunto la reimmigrazione di europei di ceppo, sostanzialmente europei bianchi, cristiani, identitari appunto. Questi concetti, appunto queste teorie del complotto che ci stai raccontando, abbiamo avuto modo di raccontare anche noi nei giorni scorsi, trovano anche un asse con il complottismo dell'estrema sinistra, che invece si rifanno a teorie marxiste sull'esercito di riserva e parlano di un fenomeno, quello migratorio, pianificato per fare sostanzialmente dumping salariale. Stanno crescendo questi fenomeni e rischiano di diventare pericolosi? Già il fatto che Generazione Identitaria, con questa campagna Defend Europe, abbia raccolto parecchi soldi, si parla di più di 70.000 euro, sia riuscito ad affittare una barca e tra poco sarà operativa sul campo, sicuramente un segnale preoccupante, perché sta a dire che comunque, nonostante queste idee, nonostante le deformazioni e le distorsioni che hanno operato sulle azioni delle ONG, cioè loro dicono che le ONG commettono atti illegali, che sono dei criminali, poi con tutto il corollario delle teorie che lavorerebbero per la sostituzione etnica, lavorerebbero per destabilizzare l'economia, che tra l'altro è un'argomentazione che è stata portata avanti prima di tutto dal procuratore Zucchero, quindi non è che non sono più tesi così minoritarie, anzi, sicuramente un segnale preoccupante. E la cosa ancora più preoccupante probabilmente è che ci sia una saldatura tra questi movimenti nuovi, perché comunque Generazione Identitaria è un nuovo movimento in Italia, i suoi membri sono tutti molto giovani, e ad esempio il loro volto, insomma, una specie di portavoce che in questi giorni è stato intervistato anche da Channel 4, dalla BBC, eccetera eccetera, si chiama Lorenzo Fiato ed è un ragazzo di 22 anni che non aveva particolari affiliazioni all'estrema destra. Quindi tutte queste cose sono, diciamo che è uno scarto significativo in avanti, perché appunto, come dicevo, non solo si tratta di un nuovo movimento, quindi ovviamente non è composta da tante persone, però è riuscita, soprattutto con l'appoggio di Lauren Southern, di cui parlavo prima. È un movimento transnazionale, genuinamente transnazionale, e infatti molti dei soldi che hanno raccolto è perché, grazie all'appoggio di figure come Lauren Southern, sono riuscite ad andare molto oltre i confini nazionali. In questa operazione Defend Europe sono coinvolte Generazione Identitaria Italia e Generazione Identitaria Austria. Sono molto capaci di stare in rete. Ad esempio, il leader di Generazione Identitaria Austria è uno che è anche una specie di youtuber. È interessante vedere come si muovono questi nuovi movimenti di estrema destra, perché appunto sono transnazionali, sanno stare molto in rete, sanno raccogliere soldi e sanno fare mobilitazione, che poi è un po' il punto di forza di Generazione Identitaria Francia, che è quello di agire come una sorta di avanguardia ideologica per i partiti di destra più tradizionali. Faccio un esempio: Salvini stesso negli ultimi anni ha usato tantissimo il termine sostituzione etnica e genocidio dei popoli europei, che è un'altra formula che risponde più a un'altra teoria del complotto, che è il cosiddetto piano Calergi. Io non so ovviamente come potrà andare questa operazione, secondo me non penso che andrà molto avanti, perché comunque quel tratto di Mediterraneo è il tratto più controllato e pattugliato al mondo, e per muoversi naturalmente devi avere autorizzazioni, il coordinamento è gestito da Roma, non so operativamente quanti margini di manovra abbiano. Quello che è più preoccupante, signora, veramente preoccupante, è che comunque, pur essendo pochi, fungono appunto d'avanguardia, fanno operazioni che loro chiamano di lotta culturale. La loro maggiore capacità, la loro maggiore pericolosità, secondo me, sta nel fatto che riescono a inserire nel dibattito pubblico queste teorie o queste idee, e quindi spostano l'asse ancora più a destra.